Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di vino, in particolare di un rapporto che riguarda il prezzo del vino. Bene, le ultime ricerche di mercato danno dei risultati, secondo me, sconfortanti nel senso che sembra che il 27% di consumatori interpellato abbia dichiarato che cerca vino sotto i 3 euro, solo una percentuale molto inferiore lo cerca sopra i 15 euro. Bene, con tutto il rispetto per le ricerche, sicuramente Trilussa insegna sul pollo e quindi le prendiamo con beneficio d'inventario, però sono dati così sui quali si può ragionare, così come si può ragionare su altri dati che sono quelli sull'export. Export 2009, in cui il prezzo per litro del vino italiano è diminuito abbondantemente e sicuramente è aumentata la quantità esportata. Quindi cosa significa? Che stiamo andando verso una produzione di quantità e non più di qualità? Bene, questi interrogativi ora li gireremo anche ai nostri ospiti. In particolare cominciamo da un personaggio che del mondo del vino se ne intende e come, in Italia e all'estero, perché sono anni che batte il marciapiede. Buongiorno a Carlo Cambi. Ciao Davide. Hai sentito questa mia premessa? Sì, l'ho sentita e devo dire che le statistiche sono quelle che sono. Certo, certo. Non ci dimentichiamo mai che il 38% del mercato italiano è fatto dal vino in brick, quindi è evidente che c'è una spaccatura nell'orientamento del consumatore: da una parte vini di basso prezzo e dall'altra un apice del mercato che però ancora fa fatica ad assorbire le bottiglie di extra lusso. Diciamo che è preoccupante. Che cosa? È preoccupante il dato che la media produzione italiana, quella che oscilla fra gli 8 e i 20 euro, in questo momento è sicuramente la più penalizzata e compressa. Perché? Perché si beve di meno per via dello 0,50, del palloncino, perché probabilmente sta cambiando la cultura di fruizione del vino. Stiamo diventando americani, per cui il vino è una sorta di bevanda da meditazione o da conversazione, non è più il compagno del cibo, e questo francamente per noi è una perdita di identità pesantissima. Ecco, ma non pensi, io volevo anche dire che Carlo Cambi ora è il responsabile di un inserto che esce al sabato su Libero, che si chiama Gusto, quindi per precisare innanzitutto appunto il Carlo Cambi. Carlo, ma non pensi che però ci sia questa tendenza a voler spendere meno sul vino, forse anche stanchi un po' di certi prezzi che sono girati negli anni passati, anche di vini diciamo non straordinari che all'improvviso triplicavano il prezzo dopo magari una recensione positiva su qualche guida o altro? Assolutamente sì, e in anni non sospetti io ho sostenuto che i vignaioli italiani, al contrario dei francesi, che hanno sempre avuto attenzione a tenere il vino agganciato alla sua origine di prodotto agricolo, cioè le piccole annate si pagano poco, le grandi annate si pagano tantissimo, in Italia i prezzi, sull'onda anche di questa ubriacatura mediatica che tu giustamente citavi, sono sempre andati a crescere senza nessuna differenza tra una vendemmia e l'altra, e molte cantine oggi sono impiccate tra virgolette al loro listino, perché se abbassano i prezzi il consumatore si può sentire, come dire, preso in giro da quando pagava, certo, io bottiglie senza fama, ecco. Bruno Ceretto, buongiorno. Buongiorno, ma non sento tanto. Bene, cercheremo di essere chiari e forti. Volevo chiedere, come ho chiesto a Carlo Cambi, cosa ne pensi di questa tendenza del consumatore, quanto dicono le ricerche, che la maggior parte ormai cerca vini a basso prezzo, sotto i 3 euro, e così pure anche il nostro export, andando a vedere i dati, diciamo il prezzo medio per ogni litro esportato è calato notevolmente rispetto agli altri anni. Si torna indietro, Bruno? Ma si incassa quello che si è speso, secondo me non si è fatto sufficientemente propaganda sull'immagine del prezzo, perché il prezzo è una componente molto importante, perché il prezzo è il costo della vigna, il costo della lavorazione in cantina, il costo della propaganda in giro per il mondo, no, quindi non si è data molta importanza a questo, adesso si pagano le conseguenze. Io però posso dirti che ho 73 anni e ho smesso soltanto l'altro ieri, ho girato tutto il mondo per poter capire qualcosa, certamente i prezzi sono calati, però io ho lavorato molto sul mercato con la mia presenza e spiegando al mondo qual era il reale valore del vino senza esaltarmi più di tanto. Non porto grosse conseguenze, io non ho ridotto per niente i prezzi e la mia azienda è un'azienda che esporta in 62 nazioni, quindi non è una cosa da poco. Bruno, ma non pensi che ci siano state delle esagerazioni di prezzo negli ultimi anni? No, esagerazioni, delle cose ridicole, inutili, perché quando aziende hanno decine, centinaia di anni di tradizione possono permettersi naturalmente, se sono supportati da una grande qualità, possono permettersi certi prezzi, ma si è andato a finire, 10 anni fa c'era la rincorsa uno dietro l'altro, perfino i dentisti, i macellai e anche qualche giornalista si è messo a far vino, qualche politico si è messo a far vino, naturalmente la prima cosa che contava per loro era il prezzo, che doveva essere per forza alto, senza conoscere le esigenze del mercato. Vedi, io che ho fatto per tutta la vita, per 50 e più anni, mangiavo 2 pranzi e 2 cene in giro per il mondo, no? Non è che le cose vanno bene, capisci? Bruno, ma è una domanda molto pericolosa questa, ma sotto i 3 euro si può produrre vino? Con bottiglia, con etichetta, costo di distribuzione? Sicuramente qualcuno che non ha vigne. Vedi, il problema adesso è facilitato abbastanza dall'invenduto, no? Perché anche aziende più famose stanno vendendo vino a 0,70, 0,80 al litro perché non hanno trovato a venderlo in bottiglia a 12-15 euro, capisci? E allora pagandolo questo prezzo, poi io ho visto in Germania un ordine di Barolo sostanzioso sotto i 5 euro la bottiglia, quindi siamo... Il Barolo qui è passato da 9 euro al litro, quello che costava l'anno scorso sfuso sul mercato, adesso a qualcosa a livello di 3 euro e forse anche meno, quindi speriamo di non tornare agli anni 80. Grazie a Bruno Cirita. Bisogna correre, caro, bisogna correre. Bene. E conoscere e capire bene, no? Ciao, grazie Bruno. Una domanda così secca anche a Carlo Cambi, ho pochissimo tempo, Carlo, ma può essere vino sotto i 3 euro? Sì, in questo momento, perché ci sono le cantine piene e gli imbottigliatori comprano sotto prezzo. No, se il vino è ancora un prodotto agricolo che richiede attenzione, ricerca, sudore e affinamento. Io credo che un problema serio che hanno le cantine italiane, su questo ti lascio, sia di poter attivare il credito su pegno, cioè di farsi finanziare l'affinamento, che è da sempre il sistema francese con le cantine che affidano la commercializzazione ai negozianti. Se non si scioglie questo nodo, noi non avremo mai un equilibrio di prezzo giusto tra la qualità del vino e quello che il consumatore paga. Insomma, il sistema parmigiano-reggiano e grana padano, esatto, mi sembra di capire. Esatto, bene. Esatto. Grazie a Carlo Cambi, lo ripeto, responsabile dell'inserto Gusto di Libero. Il gastronauta. Di nuovo buona giornata, cari gastronauti. Ebbene, stiamo parlando di vino, stiamo parlando di un fenomeno molto particolare degli ultimi mesi. Ebbene, chi passa davanti a moltissime enoteche, magari anche chi va a comprare nei supermercati, vede dei prezzi di molti vini davvero molto, ma molto, molto bassi. Devo dire che io sono molto preoccupato a vedere certi prezzi, nel senso che mi chiedo, ma sarà vino, o ci sono pericoli? Non torneremo negli anni 80? Io spero veramente di no, ma rivolgo questa domanda a un produttore che abbiamo con noi in trasmissione, ad esperti. Bene, ora la rivolgo a Francesco Zonini, il cognome stesso dice di quale azienda stiamo parlando. Buongiorno Francesco. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Tu cosa ne pensi? Ma io non credo ci sia questa, non dovremmo avere questa preoccupazione di tornare agli anni 80, è una fase chiusa che ha dato il là poi a una rivoluzione qualitativa del Vigneti Italia e che oggi continuiamo a cavalcare. Credo che sia più un fatto contingente legato innanzitutto a una sovrapproduzione mondiale, perché se andiamo a vedere i segmenti di fasce prezzo degli altri paesi sono i medesimi dell'Italia, vuol dire il prezzo medio in Inghilterra nella grande distribuzione controlla l'80% del mercato, è al di sotto dei 3 pound, credo sia 2,96 la media, 10-12 anni fa la media era 2,92, quindi credo che ci sia stato più uno sviluppo a seguito di questa sovrapproduzione mondiale. Dall'altra parte, il dato che vediamo oggi è che paradossalmente la fascia che cresce di più nei supermercati, ad esempio, è la fascia superiore ai 6 euro. Se andiamo a vedere l'analisi, tra i 4 e 5 euro, i 5 e 6 e sopra i 6 sono fasce che crescono bene del 4-5-6%. Per cui oggi credo che la parola chiave sia un po' di confusione. Mi ricordo 10 anni fa negli Stati Uniti era uscito Charles Shaw, denominato poi Tubac Chuck, a $1.99, venduto in California proprio sfruttando questa sovrapproduzione dello Stato americano. Sono d'accordo che il vino dovrebbe avere ben altri posizionamenti. Primo, perché è un prodotto che a quei prezzi non va a premiare la filiera produttiva, è economicamente poco sostenibile lungo tutta la filiera. Sicuramente all'interno della filiera qualcuno ci guadagna, ma non tutta, e non è mai corretto nel lungo termine non premiare un'intera filiera. Dall'altra parte si rischia di banalizzare un prodotto che è figlio della nostra cultura e tradizione. Ripeto sempre, mi piacerebbe che tanti consumatori potessero venire a vedere il momento della potatura a novembre, quando col freddo ci si sveglia alle 6 del mattino per andare a potare la vigna, perché poi la vigna ha bisogno di un lavoro continuo e quotidiano. Ecco, già vedendo quell'immagine credo che già il consumatore potrebbe attribuire ben altro valore al nostro prodotto. Beh, c'è da dire comunque che anche tu hai dato dei dati che riguardano i supermercati, il prezzo medio, ma ci sono anche ricerche recenti, abbastanza anche serie, che danno che il consumatore, il 25% si orienta su vini sotto i 3 euro e solo una percentuale che supera appena il 10%, no, voglio dire sopra il 5%, sopra i 15 euro. Quindi credo che, insomma, a parte che le statistiche, se non quelle vere, diciamo dirette, che possono essere anche quelle dei supermercati, lasciano il tempo che trovano, ma io credo che sia preoccupante questo momento. Ora rivolgo appunto questo mio pensiero a Leonardo Valenti, che è un bravissimo enologo, nonché professore universitario. Buongiorno Leonardo. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Mi chiedo questo, Leonardo: negli anni '80 abbiamo vissuto dei momenti grigi, momenti bui, perché magari qualche furbo ha sfruttato il momento. Io mi chiedo, ma con vini sotto i 3 euro, innanzitutto mi chiedo quale vino possa essere. Sicuramente c'è sovrapproduzione, ma facendo il costo della bottiglia, dell'etichetta, del tappo, insomma, forse non so cosa ne viene fuori. Ma ti voglio chiedere, non c'è il pericolo che quando i prezzi sono così bassi ci siano dei furbi che si inseriscono proprio in questo tipo di mercato, cioè di basso prezzo? Ma guarda, secondo me l'analisi appena fatta da Zonini è più che giusta. Il problema è che a 3 euro logicamente possono vivere solo determinate situazioni che hanno una forte implementazione nei lavori di campagna e nella riduzione dei costi. E teniamo conto che la superproduzione esiste e che in qualche modo la diminuzione del consumo del vino porta anche un pochino a accentuare questo problema, per cui io penso che non bisogna stupirsi se il costo della bottiglia è 3 euro, certo sotto certi livelli probabilmente diventa problematico. Io penso che questa situazione in parte abbia fatto bene alla nostra agricoltura e alla viticoltura in particolare, perché il viticoltore ha iniziato a razionalizzare quelli che sono un discorso legato ai costi di produzione e tipologia di prodotto. Per cui dice, se io devo arrivare sullo scaffale a questo, devo avere tutta serie di implementazioni che si basano naturalmente su dei costi di produzione e alla fine su un guadagno. È logico che questo guadagno deve essere fatto a aziende come la Zonin, che non ha problemi, che fa numeri più importanti e riesce a capitalizzare comunque, che è il discorso del vecchio supermercato, che alla fine non è come il negozio, ma alla fine lavora su numeri più grandi e il proprio guadagno arriva dal fatto di aver implementato i numeri. Bene, io rivolgo non la stessa domanda a un giornalista molto attento, che è Andrea Grignaffini di Spirito Divino. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ti voglio chiedere, ma anche tu non noti in giro delle riduzioni di prezzo su certi vini, certi marchi di vino che magari sono cresciuti troppo velocemente, in pochi anni hanno così triplicato i prezzi di vendita? Guarda, penso che adesso la situazione cominci proprio a focalizzarla tu. Io quello che un po' tu definivi preoccupazione, che forse è un termine forse leggermente eccessivo, ma non troppo, io lo trasformo in perplessità. E la perplessità deriva anche un po' da quello che diceva, secondo me, molto correttamente Francesco Zonin prima, che viviamo in un momento storico, e non a caso un momento di crisi. Crisi vuol dire un po' deregulation e anche confusione. Il problema, secondo me, come stavi dicendo correttamente tu, è stato da una parte questa moltiplicazione dei prezzi molto filo anni 90, insomma, dove chi produceva un vino diventava immediatamente super, anche perché se lo attribuiva da solo il superlativo e di conseguentemente poteva fare il prezzo che voleva e quindi si affiancava immediatamente al punto del riferimento mondiale. Faccio un Pinot Nero, necessariamente deve essere al top come se fosse in Borgogna. Questo secondo me ha creato veramente una situazione, un vortice molto implosivo che sta appunto creando queste problematiche, anche perché adesso il consumatore, trovando prezzi molto ridotti, si chiede: ma quel vino lì valeva veramente quei soldi attribuiti al produttore stesso? Perché se notiamo, insomma, nel mercato estero, grandi Borgogna, grandi Bordeaux, i prezzi li hanno conservati, magari troppo alti, ma li hanno conservati. Il problema poi del vino a basso prezzo, guarda, non ti nascondo che è un argomento che io non avevo mai affrontato in vita mia, perché onestamente cercavo di bere bene. Adesso, anche figlio un po' dei tempi, controllo anche un po', faccio un monitor un po' il mercato, e devo dire che a certi prezzi, ma parlo sempre dei 4-5 euro, si trovano cose, sì, molto interessanti. Sì. La problematica è avere un po' una selezione, perché lì veramente è un fatto numerico, i prodotti sono veramente millanta, per citare un termine veronelliano, quindi sapere qual è quello buono e qual è quello negativo ci vorrebbe, e qui forse faccio autocritica anch'io, anche da parte magari dico mia, così evito di dire nostra, anche un po' d'attenzione verso questi prodotti un po' low price. Zonin, volevo chiederle come lo vede a breve il mercato, pensa che ci possa essere una ripresa, che l'etilometro sia stato metabolizzato e la crisi, cioè, diciamo che stiamo un po' uscendo dalla crisi economica, quindi prevede un medio termine più positivo? Ma guarda, riprendendo anche l'analisi fatta prima, è vero che i vini sopra i 5 euro crescono tanto, ma sono una fascia più piccola, però quello che per noi è interessante nei produttori è il trend. Quest'anno, a conclusione anche dell'ultimo Vinitaly, devo dire che si respira un'aria migliore già dell'anno scorso, migliore anche perché una serie di distributori hanno finalmente capito che non si aumenta il consumo di vino diminuendo i prezzi, non serve a niente, si aumenta il consumo di vino facendo cultura, difendendo i nostri valori e mantenendo uno standard di qualità elevato. Per fare questo non può esserci qualità elevata e prezzo basso, c'è una qualità elevata al giusto prezzo. Poi ogni consumatore si segmenta quello che può essere il giusto prezzo, i 3, i 5, i 7, gli 8, i 15 euro a seconda delle capacità di spesa, come è segmentato il mercato dell'auto o del turismo ad esempio. Per quanto riguarda l'etilometro, nota dolente, perché credo che noi produttori siamo stati un po' penalizzati da una campagna di disinformazione abbastanza scorretta. Vorrei fare un riferimento al discorso invece tenuto a nostra difesa, per fortuna, dal ministro Zaia durante Vinitaly, che dice neanche il 2% degli incidenti che capitano in giro per il paese sono da reputare all'alcol. Mi domando perché, se ci accaniamo così tanto per neanche il 2% di questi sinistri, non ci accaniamo sull'altro 98%. Ha portato sicuramente a un calo dei consumi, ripeto, più che altro per paura, se non per altro paura creata da una certa, chiamo, disinformazione. Magari anche noi produttori, facciamo un mea culpa, potevamo ricontrobattere con un'informazione anche migliore. Però ripeto, il Vinitaly si è chiuso abbastanza bene. Sicuramente sarà durissima, perché viviamo comunque in sovrapproduzione e comunque ancora in una crisi economica che non è finita, ma da cui si comincia a intravedere la luce, per cui noi andiamo avanti. Grazie, sempre. Grazie Francesco, grazie. Beh, torno a Valenti, voglio chiedere a un winemaker, a un enologo, ma sui 3-4 euro si può fare un buon vino? Guarda, io penso di sì, però c'è tutta una serie di logiche da dover in qualche modo andare a valutare, ovvero sia ci sono dei vitigni, i vitigni italici, posso farti degli esempi che poi tu benissimo conosci, i Montepulciani, i Verdicchi, i Vermentini, varietà italiane che sono varietà che da sempre hanno, si sono salvate perché garantivano anche dei livelli di produzione abbastanza elevata, con dei riscontri qualitativi anche importanti, per cui bere un buon Montepulciano con 3-4 euro si riesce. Il concetto è che le aziende devono fare mente locale sui costi, sul tipo di prodotto che devono andare a fare, che prima non facevano, per cui dice devo produrre quel vino lì per quel tipo di mercato, devo implementare tutte le logiche che sono di risparmio e di correttezza nei confronti del consumatore, non devo diminuire la qualità del prodotto, devo trovare i giusti sistemi attraverso le tecniche agronomiche, attraverso i vitigni, attraverso la vocazionalità delle zone per esaltare questo tipo di situazione. Ma si riesce tranquillamente, è logico che non si faranno più i vini in barrique, non si faranno più i vini con una tecnologia esasperata e particolare, hai capito? Qui si riesce perché le barrique costavano 3-4 euro a bottiglia e poi quei 3-4 euro moltiplica per qualcosa perché l'ho messo in barrique andava a finire a cifre che erano impossibili. Torno al discorso fatto dal nostro amico lì presente, il concetto è quello lì, alla fine c'erano un sacco di vini che sono partiti, un sacco di gente che è partita per la tangente, certo, solo perché faceva vino prezzi stratosferici. Invece ritorniamo alla realtà che sicuramente con 3-4 euro, 5 euro, poi dopo questo è prezzo di produzione, poi aumenterà, certo, qualcosa, la commercializzazione. 5-6 sullo scaffale. Ecco. Bene, grazie Leonardo Valenti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di vino, a parlare di prezzi sotto i 3 euro. Abbiamo chiesto se si può fare un vino corretto, abbiamo sentito anche quali sono le tendenze appunto sul mercato, se appunto si può appunto trovare dei vini bevibili a prezzi che fino a qualche anno fa secondo me erano abbastanza impensabili, poi all'improvviso sembra proprio che siamo tornati magari agli anni 80, non quelli del metanolo ma gli anni 80 come prezzi. Allora voglio fare così una domanda ad Andrea Grignaffini, lo ripeto, giornalista di Spirito Divino. Prima dicevi che sicuramente in certe fasce che sono state molto trascurate dalla stampa, diciamo sotto i 5 euro sicuramente, oggi c'è quasi una riscoperta, ma forse anche perché ci sono dei produttori di qualità che hanno capito che non c'è altra soluzione. Tu cosa ne pensi? Beh, penso proprio che come al solito tu abbia ragione, insomma sei un attentissimo osservatore dei fenomeni anche di costume correlati al mondo del vino e del cibo e penso che tu abbia ragione. Insomma, si è capito che probabilmente tutto questo target insomma altissimo probabilmente non c'era, probabilmente era gonfiato da un momento economico molto positivo che faceva sì che tutto, anche il bello, il lusso, le cose molto costose fossero alla pace. Adesso abbiamo scoperto che magari non è sempre così, che rimangono quelle delle nicchie. Poi ci sono anche un'altra cosa da sottolineare, ci sono dei vitigni che hanno nella tra virgolette povertà un loro grande successo e penso a un fenomeno che forse sei stato uno dei primi a considerare proprio tu, quello del Lambrusco. Il Lambrusco è una vino bevanda che permette all'utente di bere a prezzi molto bassi un vino molto ben fatto che insomma che tutti stiamo riscoprendo. Ecco, volevo, grazie Andrea Grignaffini, bene, grazie, ti ringrazio appunto di questa risposta. Continuiamo questo nostro giro, ora andiamo al sud, andiamo in un'azienda importante, Campana e Feudo di San Gregorio, da Antonio Capaldo. Buongiorno Capaldo. Buongiorno Davide. Senti, volevo chiederti questo, un'azienda così proiettata anche sui mercati esteri, anche con dei vini di fascia molto alta, come si sta organizzando oggi di fronte a, diciamo la verità, una caduta di prezzi? Cioè cambia rotta oppure mantiene salde le proprie posizioni? Ma Davide, il problema è annoto di questa ripartizione del mercato per diverse fasce di prezzo. Oggi sicuramente anche la concorrenza internazionale sui mercati internazionali ti mette in difficoltà perché per mille motivi legati ai costi di produzione, non tanto a margini del produttore ma proprio a costi primi di produzione, alcuni paesi sono in grado di produrre qualità a prezzi minori dei nostri. Noi teniamo la barra, nel senso che io sono convinto, al di là che la nostra zona non sono zone neanche facili dal punto di vista delle rese, dei costi dei terreni, delle uve, eccetera, eccetera. Noi siamo convinti che si possa difendere il lavoro di qualità che viene fatto già dalla vigna, dai viticoltori, dal lavoro che viene fatto in cantina, il controllo della qualità totale a livello di imbottigliamento, spedizione, eccetera, per garantire qualità al cliente, e che questo possa valere qualche euro in più. Poi non sto parlando di, tra l'altro noi, i nostri prodotti la gran parte sono comunque sotto i 10 euro, però ecco, sotto i 3 euro per me un'azienda come la nostra è perdente, non riesce a garantire la qualità che gli viene riconosciuta. Ho visto una cosa molto interessante al Vinitaly, perché queste tendenze di cui parli tu sono tendenze, ti ripeto, c'era il fiasco tanti anni fa, si è evoluta, oggi c'è molta concorrenza, però in realtà il problema del prezzo è un problema annoso. Al Vinitaly ho visto una cosa molto interessante: tantissimi ragazzi giovani, tantissime ragazze anche di più dei maschi, che venivano a provare i vini più importanti con i loro stampati dei siti internet, stampati delle guide, che cercavano qualità. Cercare qualità non tanto perché li erano offerti gratuitamente, ma proprio perché si sta riscoprendo in una certa fascia l'attenzione al vino, magari non da 50-100 euro, lì, secondo me lì siamo veramente fuori mercato su alcuni prodotti, ma della cosiddetta fascia media. Rimani con noi, continuiamo comunque anche con un altro produttore, che in questo caso è anche presidente del consorzio Franciacorta, Maurizio Zanella di Cadelbosco. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Le bollicine in particolare, tu rappresenti Franciacorta, quindi Franciacorta, risentono di questa caccia ai vini sotto i 5 euro, perché le statistiche sono queste, io l'ho già ripetuto più volte durante la trasmissione, prendo con beneficio di inventario le statistiche, però parlano che il 27% dei consumatori cerca vino sotto i 3 euro, quindi credo che questo sia un dato di fatto, e se si passa davanti alle enoteche, si passa davanti ai negozi che vendono vino, si vedono dei prezzi che mettono i brividi. Allora chiedo, Zanella, ma le bollicine sono contaminate da questa realtà oppure rimangono, come posso dire, in cielo? Premesso che ritengo assolutamente dicevole e impensabile vendere e commercializzare del vino a un prezzo inferiore, parlo di prezzo al pubblico, a 3,50 euro, perché credo sia la soglia per una dignità produttiva, una decenza che permetta alla filiera di poter lavorare in sicurezza producendo onestamente. Quindi personalmente diffido di tutti i prodotti che si trovano al pubblico al di sotto dei 3,50 euro. Questo è il mio pensiero, che non è detto evidentemente che sia una regola. Il mondo delle bollicine vive il momento di congiuntura esattamente come quello del vino. C'è molto entusiasmo da parte dei media, voluto da un comparto che sicuramente vive un momento meno critico, ma vive un momento critico dove il prezzo ha avuto dei problemi di tenuta estremamente importanti. I territori che sanno gestire la situazione in termini produttivi questo problema non l'hanno avuto, l'hanno avuto in maniera estremamente limitata, e per fortuna faccio parte di uno di questi, mentre altre denominazioni molto estese in Italia e all'estero hanno avuto problemi con cali fino al 15% di prezzo, oltre a cali di vendita. Quindi anche le bollicine sono contaminate da un problema congiunturale attuale. Beh, sentiamo un winemaker che gira per il mondo, perché appunto diciamo che contribuisce alla produzione di vini non solo in Italia ma anche nel Sud America. Buongiorno a Roberto Cipresso. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Roberto, hai sentito, sotto 3,50 euro si può produrre un vino dignitoso? Guarda, è davvero molto difficile. Se pensi che quanto costa una bottiglia, un buon tappo, un'etichetta, insomma, che possa vestire in modo dignitoso una buona bottiglia, è davvero complicato. Io ho fatto un po' di calcoli anche per ottimizzare molti di quelli che sono i costi di vigneto, però gestendo, come dire, produzioni in modo ordinato, ed è difficile pensare di produrre un'uva che costa meno al produttore, se parliamo di vini buoni, insomma vini importanti, costa meno al produttore di un euro il chilogrammo d'uva, che corrisponde con la trasformazione, con tutto quello che serve per farne poi un vino, devi più o meno raddoppiare, quindi arrivi ad avere 2 euro il costo del vino soltanto, poi metterci un euro di, tra bottiglia e tappo, la confezione, ma poi ci sono una serie di costi che noi non consideriamo perché pensiamo soltanto ai costi quelli vivi, ma i costi che sono di contorno e che non sono così tanto di contorno, che sono i costi commerciali, i costi di comunicazione, i costi, alcuni costi insomma che fanno parte delle manutenzioni dipendenti, cioè diventa veramente complicato. Io non credo si possano fare vini importanti, vini di dignità a prezzi più bassi di 3,5 euro, non lo credo. Eccoci, presso. Prego. Scusami, no, ti dico, ci sono poi delle varietà, per esempio, che sono un po' più generose, va detto, cioè il Montepulciano d'Abruzzo è una delle poche uve autoctone italiane, nazionali, che riescono ad offrire uno standard di qualità abbastanza importante, anche se riescono a produrre 500 o un chilogrammo di uva in più rispetto a un Sangiovese che invece richiede una produzione più limitata, però diciamo che anche su varietà più generose, su quadri diciamo più comodi, è veramente complicato, io faccio proprio fatica, ecco. Bene, rigiro la domanda anche a Antonio Capaldo. Capaldo, ma tu cosa ne pensi di 3,50 euro? No, io sono d'accordo con chi è intervenuto prima di me. Sicuramente se i succhi di frutta costano sotto i 2 euro qualcosa si può fare, no? Ma non è vino. Non è vino nel senso che non è vino degno di questo nome, degno di quello che al vino, perché sia un prodotto di qualità come lo intendiamo noi, come noi italiani abbiamo, è l'unica possibilità che abbiamo poi di imporci sui mercati internazionali e fare un prodotto di alta qualità. Ti muovi per forza di cose su fasce più alte, la solidità finanziaria che è richiesta anche per, al di là di tutti i costi che dicevamo prima, cioè di abbigliaggio, che veramente fa la differenza tra un tappo e l'altro, la qualità del vino. E ci sono, cioè voglio dire, la bottiglia abbigliata comunque non costa meno di 1 euro se si persegue la massima qualità nei materiali, ma i costi commerciali, i costi di comunicazione, tutte le cose che sono state dette prima, aggiungo anche la necessità di capacità finanziaria di sostenere comunque un ciclo lungo di lavorazione, talvolta nello spumante, per esempio, sentivo prima Zanella, hai delle immobilizzazioni in cantina anche importanti, di svariate annate, quindi ci sono delle esigenze proprio impossibili, io se penso a quei prezzi non riuscirei a sostenere la mia azienda. Beh, che chiaramente il mercato va, una parte del mercato va in quella direzione, ma noi dobbiamo batterci per difendere quello che c'è nel bicchiere sopra 3,50 euro, sopra 5, sopra 8, sopra 10. La vera scommessa è che chi prova il mio vino e poi prova quello di un altro, prova un altro vino di qualità e trova un vino sotto i 3,50 euro, trovi questa differenza nel bicchiere. Questo è il lavoro che noi dobbiamo fare in maniera sempre più importante. Beh, voglio aggiungere solo io una cosa, che se uno calcola il costo al litro della Coca-Cola, di altre bibite, sicuramente vanno dai 6 agli 8 euro al litro, quindi la comparazione è presto fatta rispetto alla lavorazione e rispetto a tanti costi aggiuntivi di cui abbiamo sentito. Il gastronauta. Di nuovo buona giornata a tutti. Stiamo parlando di vino, stiamo ponendo degli interrogativi. Vino sotto i 3 euro, dove si è rivolta il 25% della domanda dei consumatori, secondo le ricerche, lo ripeto per la quarta volta, con beneficio di inventario su tutte le ricerche, Trilus Docet. Ma dicevo, però è un dato di fatto che passando davanti a enoteche oppure vedendo dei negozi, insomma, si vedono dei prezzi che sicuramente fanno molto ma molto meditare. E allora io voglio chiedere a Roberto Cipresso, che è ancora con noi, visto che lui appunto produce anche in Messico, in Argentina e in altri paesi. Ecco, ma la situazione in quei paesi è la stessa nostra? Si sta soffrendo anche lì con certi prezzi e quindi si è costretti a calare, ma già che erano bassi, dove si va a finire anche in quei paesi? Ma sai, lì è un pochino più facile, Davide. i costi di produzione sono più bassi, i dipendenti costano meno, la natura è un pochino più generosa, nel senso che il rendimento la qualità della luce è più intensa e quindi si riesce a produrre anche qualche chicco di uva in più in ogni pianta. E poi va bene, loro hanno una moneta anche un po' debole, quindi hanno, come dire, sbaragliato un po' il mercato americano, che ha invece incontrato un euro pesante, e quindi facendo un conto di sola qualità, senza pensare alla suggestione, alla storia e alla credibilità delle nostre varietà italiane, normalmente, insomma, è logico, è evidente che l'America si sia spostata dove anche un po' conviene. Poi devo dire che nel caso dell'Argentina in particolare alcuni elementi di suggestione molto forti ci sono, non è, come dire, l'America che è fatta di vini hollywoodiani come concetto, o il Cile di vini di grande relazione qualità-prezzo. L'Argentina, che è un pezzo d'Italia, il 70% dell'Argentina è italiana, in realtà con queste varietà antiche su piede franco e che hanno più di 100 anni e che producono naturalmente soltanto pochi grappoli d'uva, insomma, alcuni argomenti da spendere, che non so se chiamare terroir o chiamare solo antico, storico, però insomma sul mercato americano creano appeal, creano interesse, curiosità. Bene, grazie Roberto Cipresso e auguri per il tuo lavoro. Bene, ora andiamo da un altro produttore da un marchio importante, andiamo da Marco Caprai. Buongiorno Marco. Buongiorno Davide, buongiorno. Marco, io ho letto ultimamente un dato che dava i dati 2009 della produzione italiana, soprattutto di esportazione, dove si leggeva che il costo del vino medio a litro era 1,41 contro 4,4 della Francia, e in Italia in grande calo, così pure in Francia, diciamo del 2009 rispetto alle altre annate. Tu ritieni che sia preoccupante questo dato, che si possa tornare alla produzione di quantità e non più a quella di qualità? Beh, sicuramente è un dato preoccupante, un dato che mette a rischio le nostre imprese. C'è stata questa interruzione di un trend positivo per la crescita del valore del vino italiano, che cercava di, in qualche maniera, di avvicinarsi ai valori dei francesi, valori magari difficilmente raggiungibili. Ora questa battuta d'arresto è una battuta pesante, siamo tornati indietro di 10 anni, in Italia si produce troppo, dovremmo produrre meno per ettaro, dovremmo fare una viticoltura che abbatta i costi, una viticoltura più sensibile all'esigenza di produrre a minor prezzo, magari anche aumentando la quota della sostenibilità, utilizzando meno prodotti, utilizzando più tecnologia, più macchine adeguate, rivedendo i tanti sprechi di una viticoltura fatta di centinaia di migliaia di appezzamenti da meno di un ettaro, che sono il vero costo che paghiamo come sistema. La polverizzazione, quindi. Ma allora chiedo a Zanella. Zanella, ma in questa situazione particolare, anche economica, di molte aziende, non c'è il rischio che ci siano delle grandi concentrazioni? Ma il sistema viticolo è talmente frammentato che sicuramente ci saranno delle concentrazioni, ma in misura assolutamente non tale da creare, tra virgolette, o preoccupazioni o opportunità, perché la viticoltura italiana, come diceva giustamente Caprai, ha una frammentazione sull'ettaro di vigna che difficilmente potrà essere concretizzata con grandi concentrazioni. Sì, però ci saranno, credo, ma io spero di no, però vedendo la situazione economica, forse, ma mi si dice anche, ci siano molte aziende con problemi molto grossi, quindi importanti dal punto di vista economico, proprio sì, in Italia. È vero, ma non solo in Italia, è una situazione abbastanza diffusa nel vecchio mondo, quindi in Spagna, in Francia, sono messi più o meno come noi, però il substrato, le aziende commerciali, le aziende che imbottigliano potranno avere, come dire, dei problemi, ma la viticoltura, io mi riferivo a quella, rimarrà sempre abbastanza frammentata. Sulle aziende commerciali può darsi, le aziende che non sono in filiera completa, che ci possa essere un pericolo di un'eccessiva concentrazione, ma non credo. Sicuramente diminuiranno i player nel futuro. Grazie a Maurizio Zanella. Bene, ora abbiamo con noi un sommelier di un ristorante importante di Milano, il ristorante di Aimenadia, Federico Graziani. Buongiorno Federico. Buongiorno Davide, te e i tuoi ospiti. Volevo chiederti, Federico, se negli ultimi, diciamo, negli ultimi 10 mesi, nell'ultimo anno, hai notato il consumatore molto più attento ai prezzi delle bottiglie, magari molto così non richiedente di bottiglie sopra certe cifre, oppure se tutto è rimasto come sempre. No, devo dire che dal mio punto di vista, dalla mia realtà nel ristorante di Jaime Nadia, è rimasta una certa capacità di spesa. Diciamo che questa è molto meno prevedibile, le grandi bottiglie si aprono comunque, diciamo che in un modo più irregolare rispetto a qualche anno fa. Ecco, ma cosa ne pensi, che si sia un po' esagerato con i prezzi? I nostri produttori hanno esagerato negli ultimi anni con i prezzi? Beh, sinceramente l'ago della bilancia si è un pochino spostato, però è anche vero che ci sono dei costi effettivamente dati anche da una minore capacità di ottimizzare tutto il processo, che porta a dei costi un pochino più alti rispetto ad altri paesi nel mondo, e questo ci fa pagare sicuramente in questo senso. Bene, Marco Caprai, tu pensi che la riduzione dei consumi sia dovuta alla crisi economica o anche all'esagerazione forse di molti prezzi di bottiglie di vino? Beh, sicuramente ci sono state tutta una serie di cause che hanno determinato questa riduzione dei consumi. Certamente il rischio del ritiro patente, il rischio anche del sequestro dell'auto portano a una maggiore attenzione. Questo punto di vista positivo, però forse si è esagerato. Oltre a questo, la crisi economica, i problemi che l'economia sta vivendo, ecco, hanno determinato l'eliminazione di alcune cose, tra cui, ecco, il diminuire il consumo di vino. Ecco, un produttore di vino di fronte a questa situazione ha il coraggio di ridurre magari di qualcosa i prezzi? Sono, vedi, i dati che dicevi prima già dimostrano che i prezzi sono calati, ma il prezzo in Italia non è la cosa più importante. L'Italia fa ottimi vini a bassi prezzi, la catena poi di aumenti sui prezzi del vino è fuori dal mondo della produzione, perché parliamo di 1,40 euro a litro, quindi parliamo di numeri che sono estremamente abbordabili. Bene, io voglio fare una domanda secca, perché ho ancora un minuto solo, a Federico Graziani. Federico, tu hai selezionato dei vini, diciamo, importanti, ottimi, cioè importanti no, ma sicuramente ben fatti, sotto i 5 euro? Pochi, devo dire pochi, perché la qualità comunque ha un costo. Quindi è difficile anche per un consumatore andare in un negozio e trovare, diciamo, la qualità sotto i 5 euro. E questa è la tua considerazione? È possibile in alcune zone, come in Alto Adige, secondo me zone abbastanza particolari dal punto di vista della gestione. Bene, io ringrazio Federico Graziani di Jaime Nadia e Marco Caprai, appunto dell'azienda Caprai, che produce il Sagrantino a Montefalco. Buona giornata a tutti, in particolare ovviamente ai gastronauti in ascolto. Io vi do appuntamento domani per il riposo del guerriero alle 12.15, ogni giorno per la pillola alle 11.05 e alle 23.05. E poi anche la replica di questa trasmissione, che avviene appunto nella nottata di oggi. Buona giornata a tutti.